fammi ancora tanto male, dimmi ancora le tue parole, più crudeli d'un pugnale, per ferire questo cuore. Or t'ascolto sorridente, come ascolto indifferente, ciò che il mondo mormora di me, e sai perché. Guardo in cielo e son felice, non ricordo nulla più, tutto ciò che il mondo dice, tutto il male che mi fai tu. Senza dolcezza passerà la giovinezza, e ben che fa, guarda in cielo e la tristezza si dilegua là per là. Vivere cos'è la vita, senza amore tanto vuota, è una tragica partita, che stavolta hai vinta tu. Io purtroppo l'ho perduta, ma con fede l'ho vissuta, e vorrei morire, ma poi tra me dico perché. Guardo in cielo e son felice, non ricordo nulla più, tutto ciò che il mondo dice, tutto il male che mi fai tu. Tu m'hai deriso, m'hai beffato e quasi ucciso, e ben che fa, guarda in cielo ed un sorriso mi chiovisse là per là. Non ricordo nulla più. Sì, fammi male, dimmi ancora le tue parole, dille perché, guardo in cielo e trovo il sole che risplende su di me.